1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Ci siamo alle 7:18 minuti, le cuffie gracchiano e siamo pronti ad andare a leggere la rassegna stampa. Vi ricordo che oggi anche parleremo della situazione politica un po' incerta, molto incerta. Alle 9:30 Enrico Letta, Presidente del Consiglio, si presenta al Senato, chiederà la fiducia e da come si legge nei giornali dovrebbe averla, anche perché 40 addirittura del Popolo della Libertà non dovrebbero seguire l'input di Berlusconi di dire votiamo la sfiducia, e questo ha creato, e si vede dai giornali, una vera e propria spaccatura all'interno del partito. Ma tra poco lo vedremo, andiamo con ordine. Noi avremo ospite Piero Stellino del Corriere della Sera, avremo ospite il direttore dell'Espresso Bruno Manfellotto, avremo ospite il sottosegretario del Popolo della Libertà Castiglione, che è probabilmente uno dei 40 che si staccherà almeno dal punto di vista del voto al Popolo della Libertà. Insomma, tanti ospiti politici, il vostro contributo e voi ascoltatori, la situazione politica, questo dalle 8:15. Ora andiamo a leggere i giornali. In questo mercoledì 2 ottobre, intanto i titoli, il Sole 24 Ore apre così: i mercati premiano gli spiragli sul governo, questo è il titolo di prima pagina. Per il Corriere della Sera, Alfano sfida Berlusconi, resa dei conti nel PDL. Repubblica, Alfano sfida Berlusconi, sì alla fiducia. Per la Stampa, strappo di Alfano, fiducia a Letta, questo è il titolo di prima pagina. Guardate qui il giornale, a 9 colonne, Alfano tradisce, drammatica scissione, è il titolo del giornale. Libero, volo di colombe per Letta, ma Silvio va allo scontro. Il Fatto Quotidiano, esplode l'inciuccio, e ci sono le foto di Letta, Napolitano e Berlusconi. Alfano, un martedì da leoni, così titola il Secolo XIX, per raccontare insomma anche la ribellione del leader del Popolo della Libertà, del segretario del Popolo della Libertà per la verità. Per l'Unità, Alfano rompe, scissione PDL. Il Messaggero, fiducia, Alfano sfida Berlusconi. Mentre per il Manifesto, compromesso stolido, e questa è quella, il titolo sopra le foto di Alfano e Letta. Governo, c'è lavoro da fare, questo invece è il titolo di Avvenire. Insomma, come vedete, molti si concentrano sulle divisioni all'interno del Popolo della Libertà, e questo è un po' il tema che affronteremo. Ma più avanti, intanto voglio partire da alcune notizie di taglio, come si suol dire. Una che si è preceduta dal consueto mantra: mi raccomando, mani ben strette sul volante se siete alla guida, oppure tazzine del caffè bollenti poggiate per terra, e posizione d'atterraggio d'emergenza se siete in treno. Eccole qui, tornano. C'è stato un tempo in cui erano notizie di tutti i giorni, poi si sono sopite un po'. Le spese pazze della regione, in questo caso della regione Sardegna, tornano nel mirino della procura. Siamo sulla Stampa, pagina 16. Peculato, indagati 53 consiglieri sardi. Nelle note spese, penne d'oro e pecore. Le pecore, ma no, ma poi dopo i luoghi comuni, la Sardegna, le pecore, su, però anche voi non contribuite così. Ebbene, questa è la notizia, il nuovo filone d'inchiesta che riguarda esponenti ed ex del Parlamentino di Cagliari. Tradotto è sempre così, cari italiani: soldi vostri, spese loro. Fra i volti, eccolo qui, racconta Nicola Pinna da Cagliari, e sulla Stampa: c'è chi ha pagato 30 pecore e un vitello tenero, e anche chi ha acquistato 100 paia di scarpe da tennis. Qualcuno si è comprato una piccola collezione di Rolex, qualcun altro ha acquistato penne stilografiche placcate in oro, portafogli in pelle, decine di libri di grande valore, alcune opere d'arte, tutto con rimborso per l'attività politica che il Consiglio regionale della Sardegna versa ogni mese ai gruppi politici. Qualcuno, racconta di ben informati, avrebbe perfino vincolato in banca 250.000 euro per intascarsi gli interessi. La maggior parte sono ex, anzi alcuni sono ex, qualcuno nel frattempo è diventato assessore tra i nomi. Per la verità i nomi non è che ci sono in quest'articolo, se no ve l'avrei assolutamente forniti. I 33 nomi saltati fuori nelle ultime ore sono tutti di consiglieri del centro-sinistra, ma giusto lunedì i carabinieri e la finanza hanno perquisito l'ufficio e la casa dell'ex capogruppo del PDL, Mario Diana, che da qualche mese si è messa alla guida di un gruppo autonomo. E Ale, così... già pronti ad affrontare il processo? Ah, c'è qualche nome. Ci sono altri 18 consiglieri, tra cui gli assessori regionali Oscar Cherchi e Mario Floris, mentre per l'ex esponente dell'IDV Adriano Salis, l'unico che ha scelto il rito abbreviato, il PM ha già chiesto una condanna a 3 anni. Proprio dopodomani riprende il processo anche a Silvestro Ladu, ex capogruppo del partito Forza Paris, nonché ex assessore, ex parlamentare, accusato di aver speso i fondi per l'attività politica acquistando le pecore e il vitello. Bello, eccolo qui, l'abbiamo trovato, Silvestro Ladu, lui accusato di aver preso le pecore e il vitello con i soldi della regione. Per carità, si difenderà e dirà che è tutto assolutamente in regola, e io sono certo, sarà certamente tutto in regola, anche l'acquisto di pecore e vitelli, perché questo è il problema del sistema, che permette poi di dire che è tutto nella norma. Ebbene, questo sulla stampa. Intanto, cari italiani, avete già avuto modo di toccare con mano la vicenda dell'IVA aumentata, avete già notato che ci sono dei prezzi che sono aumentati, nel senso i prezzi sono aumentati, si sa, negli ultimi anni, ma all'indomani dell'aumento dell'IVA, cioè da un giorno all'altro vi siete accorti che qualcosa non va. Riguardo all'IVA, ma un'altra vicenda, è interessante ciò che scrive Libero. Pagina 16. Per la verità non è la prima sentenza di questo tipo, ce ne sono state altre anche di recente, ma questa viene messa in prima pagina, a tutta pagina, a pagina 16. Troppi crediti non saldati, non paga l'IVA e viene assolto. Alessandro Gonzato da Venezia racconta la storia di un imprenditore che era accusato di frode fiscale ma aspettava soldi da comuni e multinazionali. Per oltre 2 anni non ha versato l'IVA allo Stato, il giudice però ha deciso di assolverlo dall'accusa di frode fiscale. Per questo motivo l'imprenditore che a Marcon amministra un'azienda con fatturato superiore a 3 milioni di euro, dà lavoro a una trentina di dipendenti, non aveva alcuna intenzione di truffare l'erario. Semplicemente non ce la faceva proprio a pagare la somma richiesta, circa 135.000 euro. Quindi è vero, la colpa, infatti, come si legge nella sentenza, è che alcune pubbliche amministrazioni e 2 colossi della telefonia mobile non avevano saldato le fatture arretrate all'imprenditore. Dunque l'imprenditore, assistito dall'avvocato Franco Miotto, è stato assolto. Il legale infatti è riuscito a dimostrare, documenti alla mano, l'onestà del proprio assistito. Una volta che le fatture sono state pagate dai debitori, l'imprenditore ha subito chiesto e ottenuto la rateizzazione dell'IVA non versata. Dunque, una volta che ha ottenuto le fatture, ha pagato. Per questo non è stato condannato, anzi è stato assolto per l'IVA non pagata allo Stato. E che dire, prima della pubblicità e di 3 minuti di pubblicità vi voglio raccontare questa. Io quando l'ho letta ho pensato alle mie due solite considerazioni. La prima è: boccaccia mia, stati zitta. Questo è un qualcosa che mi sprigiona davvero dal cuore ogni tanto. E poi ho pensato: non cambiano mai. Certe persone non cambiano mai. Harry De Luca, pagina 21 di Repubblica. Sapete che di recente è stato accusato perché ha detto sulla TAV è legittimo fare una resistenza e boicottare i cantieri della TAV. Uno può essere contrario all'opera, può essere contrario a tutto, ma incitare al boicottaggio dei cantieri è ben altra cosa, soprattutto per il passato e la storia di Harry De Luca. Ebbene, un eroe chi resiste ai poliziotti, insiste Harry De Luca. Pagina 21 di Repubblica, racconta Luca De Vito: essere incriminati di resistenza è una medaglia al valor civile. Tutti dovremmo essere incriminati di resistenza. Università Statale di Milano, atrio dell'Aula Magna, tra l'altro statale di Milano, insomma. sembra di tornare un po' indietro negli anni, a parlare a un folto gruppo di studenti lo scrittore napoletano Henry De Luca, il cattivo maestro, lo stesso che 3 settimane fa in un'intervista a Repubblica aveva dichiarato di aver partecipato a forme di sabotaggio in Val di Susa e che a Milano è tornato a parlare di Notav rincarando la dose. È intervenuto De Luca e ha detto: dobbiamo solidarizzare con le incriminati per resistenza. Dobbiamo solidarizzare con queste incriminazioni. Essere incriminati di resistenza è un titolo di onore cittadino e va rivendicato. Ogni volta che c'è un nuovo arresto si allarga l'albo dei resistenti. Si entra a far parte di una comunità che dimostra di non lasciar passare l'infamia, l'oppressione, la violenza. Io non chiamo sabotaggi i danneggiamenti notturni. Quelli non sono solo danneggiamenti notturni. Avete sentito? Non li chiamo sabotaggi, sono solo danneggiamenti notturni. Così autoesplodono le macchine. No? Danneggiamenti notturni. Intendo l'opporre i propri corpi di giorno alla luce del sole a quello che è lo stupro del suolo. E io sono per il sabotaggio di quell'opera. Niente. Non cambia mai, certe persone non cambiano mai. Anzi, magari invecchiando, peggiorano. La pubblicità, rientriamo per parlare di quella che è il giorno più lungo per Enrico Letta. 9:30, il discorso al Senato, poi la fiducia. E che succederà? Beh, a dare la lettura dei giornali, vedere la lettura dei giornali, dovrebbe esserci la fiducia, perché almeno una quarantina di uomini del Popolo della Libertà, uomini e donne, hanno deciso di non seguire Silvio Berlusconi. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Ci siamo, eccoci qua ancora alle 7:33 minuti. Allora è il grande giorno della verità per il governo Letta. Alle 9:30 al Senato si presenterà con un discorso e poi il voto di fiducia. Sullo scenario pesa certamente la spaccatura ormai evidente. Chi ha visto ieri Ballarò avrà notato anche le urla, gli insulti reciproci, le accuse molto dure tra Fabrizio Cicchitto, ex capogruppo del Popolo della Libertà, e Alessandro Sallusti, direttore del giornale. Volavano accuse: Wyszynski, Beria, traditore, tu sei scilipoti, il tuo giornale è un giornale comico, sei un picchiatore, ha detto Cicchitto a Sallusti. Insomma, evidentemente si è consumato uno strappo abbastanza evidente anche pubblico. Che succederà oggi alle 9:30? Letta, niente sconti a Berlusconi, così titola pagina 4 Il Sole 24 Ore con Emilia Patta, che racconta: il segno della vittoria di Enrico Letta è la nota serale in cui da Palazzo Chigi si fa sapere che il Presidente del Consiglio respinge le dimissioni dei ministri PDL Alfano, Lupi, Quagliariello, Lorenzin, De Girolamo, che restano dunque tutti e cinque al loro posto e voteranno oggi la fiducia, e rischiano pure di portarsi dietro mezzo gruppo parlamentare, un'operazione storica che solo 2 giorni fa sembrava impossibile e velleitaria, ma alla quale il Premier ha creduto fin dall'inizio. Ora questa operazione è a portata di mano: separare la parte moderata del PDL da Silvio Berlusconi e dai falchi, ponendo così fine al ventennio berlusconiano e avviando una nuova fase della politica italiana. Questo è lo scenario. Ovviamente ci sono già i conteggi, anche il totale dei senatori 321, la soglia per la fiducia è 161, il PD ne ha 108, sicuramente voteranno la fiducia anche i 7 di SEL, vabbè, ma insomma poi potete fare tutti i conti che volete, sono i 91 del Popolo della Libertà sui quali gli occhi sono puntati, perché se si spaccano e se 40 di loro si aggiungono già ai 108 del PD più ai 7 di SEL, poi rimane qualche altro, ci sono ex del Movimento 5 Stelle, 4 senatori, chissà che faranno. Insomma, si è alla conta, ma c'è la possibilità di una fiducia, e tutto ovviamente dipende dallo scontro e dalla scissione, questa è la parola più forte usata dai giornali, che c'è all'interno del Popolo della Libertà. Addirittura le vignette molto spesso sono efficaci. Oggi Emilio Giannelli, in prima pagina del Corriere della Sera, c'è un Silvio Berlusconi travestito da Paperone che apre la cassaforte Berlusconi dei Berlusconi, e dalla cassaforte c'è un vento, uno stormo di colombe che lo travolge, lo fa quasi cadere, gli fa volare il cappello, la tuba. È insomma, Berlusconi vittima delle colombe del suo stesso partito. Ed ecco qui, pagina 2-3 del Corriere della Sera, Francesco Verderami, strappi e minacce e Alfano si ribellò a Berlusconi. Il PDL va alla conta, il vicepremier diserta l'ultimo vertice dicendo «Presidente, le affido la mia difesa». Il cavaliere tradito dice «Mi dispiace, lo considero un figlio». A un certo punto in questo psicodramma pare che Daniela Santanchè e Denis Verdini, identificati come due dei falchi, dicono, abbiano detto «Siccome Alfano vuole la nostra testa, sono pronta a farla rotolare», ha detto per esempio la Santanchè, «in nome dell'unità del partito». Ma in realtà tutto è andato allo strappo. E a questo punto tutti i giornali raccontano Marina Berlusconi, che fino a pochi giorni fa sembrava non voler scendere in politica, potrebbe essere la donna, la figlia di Berlusconi, che è pronta a prendere in mano le redini del partito. Ovviamente lo psicodramma si consuma attraverso retroscena, titoli, pagina 6 del Corriere della Sera, Paola Di Caro, il cavaliere sotto assedio, io pugnalato, i falchi lo chiamano il giorno del tradimento, Berlusconi si sente pugnalato dal suo angelino, al quale ho dato tutto, che adesso lo ripaga con questo out-out micidiale, presidente, o votiamo tutti insieme la fiducia o noi non ti seguiremo e ci staccheremo e siamo tanti. E pare che Berlusconi abbia sibillato, non mi hanno avvertito, tutti quelli che pensano questo hanno chiuso e lo vedranno, e vedranno anche quanti davvero mi voteranno contro. Con dei puntini di sospensione che non lasciano presagire a nulla di buono. Beh, effettivamente basta vedere la prima pagina del giornale. Io quando l'ho presa in mano ho detto accidenti, corredata dall'articolo di Alessandro Sallusti, ho pensato, beh, l'importante è prenderla bene. Alfano tradisce, così il titolo a tutta pagina, prima pagina, e Alessandro Sallusti nell'editoriale «Se ne stanno andando, Alfano, Lupi, compagnia si rimangiano le dimissioni irrevocabili per mantenere la poltrona da ministro, sono disposti a vendersi alla sinistra, starebbero per fondare Nuova Italia con PDLini bolliti alla Giovanardi, in libera uscita, faranno la fine dell'utile idiota Gianfranco Fini, usato dal PD a Napolitano e da Napolitano per mandare a casa Berlusconi, come finì lo sappiamo, da Giuda in poi tradire il padre non ha mai pagato». Uno lo legge e dice accidenti, l'ha presa proprio alla leggera Alessandro Sallusti, l'ha presa bene, come si suol dire. E sta di fatto che però il clima è questo. Per il giornale sono già stati ribattezzati Quagliariello, Lupi, la Lorenzin, Cicchitto, Formigoni, Carlo Giovanardi, i poltronisti, cioè coloro che fanno la giravolta per mantenere la poltrona. E su Alfano il giornale stesso fa un profilo, Giancarlo Perna, che racconta i personaggi in maniera stilisticamente impeccabile, peraltro molto puntuta, il giovane vecchio politico che ha nostalgia di De Mita. Pagina 7 del giornale, Giancarlo Perna fa il personaggio Alfano, già presentato con quei giochini che si fanno con delle foto in cui fa delle facce buffe, in questa foto si tiene chiuso un occhio e risulta un po' bizzarro. Beh, insomma, è una tecnica abbastanza consolidata, no? Quella di mettere anche in ridicolo le persone presentando delle foto nelle quali non sono uscite, come dire, come se fossero usciti da un set fotografico. Per Libero ci prova lo zio è Gianni Letta, è dato come l'uomo, come racconta Paolo Emilio Russo a pagina 8, come l'uomo che sta facendo avanti e indietro tra Palazzo Grazioli, Presidenza del Consiglio per risolvere la crisi, ma pare che neanche lui ce la possa fare. Insomma, questo è il clima. Secondo il Secolo XIX, il retroscena di pagina 3, Angelino trova la libertà, Silvio è il nostro passato, così ha reagito Alfano, che viene definito dal Fatto Quotidiano a pagina 3 Spartacus, addirittura la ribellione di Spartaco, secondo il Fatto Quotidiano. Sta di fatto che insomma l'abbandono è quasi totale. Sentite per esempio come racconta Guido Ruotolo sulla Stampa che cosa ha fatto Ulisse di Giacomo. Voi direte: chi diavolo è Ulisse di Giacomo? Ulisse di Giacomo è colui che dovrebbe subentrare a Berlusconi al Senato quando Berlusconi dovesse essere dichiarato decaduto, e questo dovrebbe accadere venerdì. Ulisse di Giacomo, che è il primo dei non eletti in Molise, perché Berlusconi è stato eletto in Molise, ha presentato una memoria sul perché a suo parere sia legittimo che lui debba subentrare a Berlusconi. E in questa memoria Ulisse di Giacomo, del partito di Berlusconi, definisce Berlusconi immorale. La sua posizione dopo la condanna non è compatibile dal punto di vista morale con il fatto che possa continuare a sedere in Senato. Su Silvio s'abbatte la vendetta del primo escluso PDL in Molise, Guido Ruotolo l'ha già detto, sarà un'offesa impareggiabile per il Cavaliere. Quando prenderà il suo posto, Di Giacomo voterà a favore del governo Letta. E ha detto, ha definito, ha difeso la legge Severino. Quello che ha deciso il legislatore è semplicemente di stabilire che chi ha scelto di effettuare una frode fiscale ed è stato condannato a scontare 4 anni di carcere non ha i requisiti morali che sono necessari per sedere in Parlamento. Come vedete, la situazione è questa. Anche sul Sole 24 Ore, a pagina 5, il PDL si spacca e si conta sulla fiducia. Questo è il clima e chissà che succederà. A proposito di Sole 24 Ore, io voglio salutare il nostro Mauro Meazza, che come al solito sbrandiamo a quest'ora. Mauro, buongiorno. Hai visto? Tu sei un poltronista, tu sei uno di quelli proprio attaccato alla poltrona, seduto almeno in questo momento. No, solo, diciamo, anzi sono sveglio da tempo, anche perché oltre a sentire la rassegna stampa che fai tu, ma voglio capire che giornata sarà. Poi c'è un sacco di roba da leggere oggi sul Sole 24 Ore. Che cosa ci puoi proporre, per esempio? Innanzitutto, guarda, scusami se accosto le grandi vicende politiche alle piccole vicende edilizie, ma oggi abbiamo una guida di 16 pagine per spiegare come sfruttare gli sconti fiscali, che sono grossi fino a fine anno, cioè detrazioni fino al 65%, poi c'è quella del 50%, la guida ai lavori in casa, che diciamo è abbastanza importante in un momento come questo in cui di sconti fiscali ce n'è pochini. E poi, se andate fino proprio all'ultima pagina del Sole, c'è un bel lavoro sulle imprese che vogliono, sono interessate a investire in India, perché l'India è molto grande, come talvolta ci dimentichiamo, e ci sono stati che stanno crescendo molto di più del prodotto interno lordo nazionale. Quindi è interessante andare a investire in quelle aree lì, ma non vi dico niente, vi rimando alle pagine. E poi naturalmente l'IVA, l'IVA è il grande cruccio di tutti gli italiani, e specialmente di chi deve vendere, quindi altre pagine sull'IVA con domande, risposte, e persino, guarda, abbiamo fatto un forum, oggi si possono fare delle domande, il sole24.com/, cioè quella sbarretta obliqua, aumento IVA. Mandate le domande fino al 9 ottobre e poi cerchiamo, insomma, di dare di tutte le risposte, di dare le indicazioni necessarie. Mauro, nel salutarti, un ascoltatore via SMS ci dice: ma non capite che sono tutti attori, sono tutti d'accordo, possibile che non abbiate il coraggio di dirlo? Evidentemente si riferisce a un po' il teatrino della politica. Io non ci voglio credere, c'è in ballo un paese, la disoccupazione giovanile è salita al 40%, non voglio pensare che sia una grande recita per affossare un paese, no? Tu che ne pensi? Non è così? No, io spero proprio di no, spero che l'ascoltatore si sbagli. Capisco che c'è un po' quasi di stanchezza, scusami, questo mi sembrerebbe di cogliere un po' di stanchezza rispetto a queste trattative. Certo, la politica ha i suoi tempi, per carità, però ecco, fatichiamo, appunto, noi che abbiamo questi problemucci, l'aumento dell'IVA, la detrazione da prendere, e non lo so, investimenti da decidere, ecco, li vorremmo vedere più tonici, più sul petto, abbastanza, visto che queste sono le cose concrete che poi toccano tutti noi. Grazie Mauro, ti saluto, ci ritroviamo domani ovviamente. Mauro Meazza, caporedattore del Sole 24 Ore, poi trovate tutti i dettagli sul Sole. E prima di andare al traffico, io voglio ricordare che oggi anche in un'intervista si espone Luca Cordero di Montezemolo, intervistato da Repubblica, pagina 7, da Roberto Mania, l'ex presidente di Confindustria, dice: i moderati italiani meritano altro, ma chiama all'appello i moderati: basta con l'irresponsabilità, mostrate lealtà verso il paese, dal Cavaliere solo propaganda e demagogia. Dunque un attacco anche diretto a Silvio Berlusconi da parte di Luca Cordero di Montezemolo, lo trovate su Repubblica. Mentre le larghe intese, c'è sempre l'articolo di colore, no? come se la politica già non regalasse abbastanza colore. Ma Andrea Malaguti sulla Stampa è andata a verificare come funzionano le grandi intese in casa Francesco Boccia, nunzio De Girolamo, perché sapete che il ministro dell'agricoltura De Girolamo, il PDL, che però voterà penso la fiducia a Letta, e Francesco Boccia del PD sono compagni nella vita, e quindi Boccia De Girolamo, ma noi andiamo avanti. E ci mancherebbe che debbano divorziare perché cade eventualmente il governo delle larghe intese. Andiamo al traffico, va che è meglio. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Evviva! E allora, intanto ha parlato Giorgio Santacroce, che è il primo presidente di Cassazione. C'è l'intervista, ha incontrato Donatella Stasio del Sole 24 Ore e Giovanni Bianconi del Corriere della Sera, perché Santacroce è colui che è stato tirato in ballo in questa intercettazione ambientale, no? Due giorni fa Silvio Berlusconi parlava con un deputato del PDL, tutta questa telefonata è andata in viva voce ed è stata registrata e mandata in onda dalla 7, e in questa telefonata Berlusconi diceva: prova a informarti, diceva a questo interlocutore del PDL, prova a informarti perché so che il capo dello Stato Giorgio Napolitano sarebbe informato, sarebbe spinto per avere in anteprima la mia sentenza sulla vicenda De Benedetti Mondadori. Allora, il primo presidente, facendo pressioni anche sul primo presidente di Cassazione Santacroce, che ora reagisce, eversore, chi chiama eversivi i giudici. Intervistato da Donatella Stasio dice: è totalmente falsa questa cosa, certe parole rivelano una concezione distorta dello Stato di diritto, da anni è in atto una delegittimazione gratuita della magistratura e ultimamente gli strali sono stati lanciati contro la Cassazione. La telefonata rivela una concezione contraria ai principi dello Stato di diritto, autonomia, indipendenza della magistratura, uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge. E dice Santacroce, rispondendo alla domanda di Donatella Stasio: quindi chi dice che la magistratura è eversiva? È eversivo lui? Sì, risponde Santacroce, è eversivo. Il pericolo che si corre è la tenuta della democrazia. E anche sul Corriere il titolo è questo: Santacroce, attacchi assurdi ai magistrati, siamo al muoia Sansone con tutti i filistei. Quanto ha detto Berlusconi è falso, non c'è stato alcun intervento del Colle. Il clima è questo. Cari italiani, il clima è questo, si va anche a sfrucugliare, a sondare ancora le vicende, mamma mia, ma che noia, che noia, che noia, che paese ancorato a tutte queste cose da 20 anni. Eccolo qui, la cresta milionaria dell'Ape Regina. Guido Ruotolo sulla Stampa racconta come Silvio Berlusconi avrebbe prestato 1,5 milioni all'Ape Regina Sabina Began, per comprare una casa, ma la casa comprata da Sabina Began è stata comprata a 600.000 euro, e quindi che ci ha fatto con 900.000 euro in più? Il titolo è La cresta milionaria dell'Ape Regina. Ah, mi verrebbe veramente voglia quel mantra di Oscar Giannino. Nah, vabbè, insomma, adesso magari lo recupereremo. Ecco. Basta! Basta! Ecco. Ecco, più efficace di questo non c'è niente. Allora, intanto succede in Calabria una storia che viene raccontata dai giornali, ed è questa. È una storia che purtroppo di tanto in tanto viene fuori con alcuni amministratori locali, poi per qualche giorno c'è lo sdegno sui giornali, adesso interverrà magari anche financo il capo dello Stato che chiamerà, interverrà, e poi tra 3 giorni torna tutto come prima. Un sindaco del partito SEL nella Locride, Benestare, 2500 abitanti, provincia di Reggio Calabria, si è dimesso dopo che l'ennesimo episodio è stato la sua auto bruciata sotto casa. Auto bruciata lascia il sindaco anticosche Giulia Veltri. Sulla Stampa, pagina 19, ma anche l'Unità dedica una pagina intera. L'auto in fiamme lascia al sindaco di Benestare, Massimo Solani, a pagina 12, lo stato di abbandono, isolamento in cui versa il nostro territorio, dimenticato volutamente e tragicamente da uno Stato sordo e assenteista, non mi consente più di rappresentare degnamente la mia gente. Così Rosario Rocca, sindaco di Benestare, ieri mattina ha parlato con la moglie Francesca, si è seduto al computer di casa e ha scritto queste righe. E poi, dopo aver stampato la sua lettera di dimissioni indirizzata al Presidente della Repubblica Napolitano, al Presidente della Camera Boldrini, al Prefetto di Reggio Calabria, a tutti i componenti del Consiglio Comunale, l'ha fotografata, l'ha messa su Facebook scrivendo «Dimissioni irrevocabili». «Solo uno stupido non avrebbe paura adesso», scrive questo sindaco. «Come dargli torto? Non è tempo di eroi in questo paese. Non è tempo di eroi in questo paese. Auto bruciata lascia il sindaco anticosche e adesso tutti correranno a mostrargli un sostegno di facciata». Di facciata. Oh, voglio chiudere con il premio La Carta Costa, il premio più ambito della rassegna stampa di Radio 24. A mio insindacabile giudizio, come sempre, vince oggi Oscar Grazioli sul Giornale. Ci racconta per mezza pagina sotto il titolo «I gatti si affezionano davvero, ma i cani ci capiscono di più». Il linguaggio canino si avvicina a quello dell'uomo con i mici, i mici, i mici. E invece con loro è difficile comunicare, ma si riscontrano reali affinità con le nostre personalità. Attenzione, ci sono degli studi, come sempre, che portano poi a scrivere questi articoli. Scrive Oscar Grazioli che è stato fatto uno studio su chi si sentiva più gatto e più cane nella vita degli uomini, e sappiate che chi è gatto è una volta e mezzo più istruito di chi si sente cane. E Oscar Grazioli scrive anche: scrivetevi e vi mando gli estremi della ricerca se non ci credete. Ma chi se ne fotte, mi verrebbe da dire, chi se ne fotte? Vuoi tenere un cane, vuoi tenere un gatto, tienilo, vuoi tenerne 10, tienili. Io ho un gatto, però non mi faccio queste domande se il gatto mi capisce più del cane. E gli faccio così: Zen, Zen, si chiama Zen. Zen, vieni qua, Zen, da una carezza, lui è contento, si accuccia, dorme e basta, e si va avanti e non metto una pagina sul giornale, perché come al solito, amici del giornale, la carta costa, giornale radio.